piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. L'ora di religione a scuola per me è un momento di confronto. L'ora di religione a scuola per me è un'occasione di dialogo tra cultura e religione. L'ora di religione a scuola per me è la possibilità di scoprire che il tesoro più grande è chiuso nella mia vita. L'ora di religione è un momento di arricchimento. Durante l'ora di religione posso conoscere, approfondire arte, musica e cultura italiana che nel cristianesimo trova le sue radici. L'ora di religione è uno sguardo oggettivo sul mondo e su noi stessi. Con l'ora di religione ho imparato che la bellezza del creato va preservata. L'ora di religione è un momento di felicità e di riflessione. Con l'ora di religione posso conoscere esempi di impegno contro le mafie come Don Pino Puglisi e Don Peppe Diana. Con l'ora di religione posso conoscere il valore del dono di sé attraverso le associazioni di volontariato. Secondo me l'ora di religione è un'ora in cui puoi parlare di cose nuove che non hai mai sentito parlare. Avete sentito, ragazzini convintissimi che l'ora di religione sia fantastica, il momento più bello della giornata scolastica. Naturalmente sono ragazzini che hanno avuto un regolare inquadramento in una visione della vita in cui l'ora religione fa parte dei necessari momenti scolastici di istruzione. Questa mattina voglio parlare dell'ora religione e mi raccomando, non fraintendete, lo dico in precedenza come una sorta di attacco anticlericale. Voglio riflettere su qualcosa che in realtà secondo me è un po' anacronistica alla lettura della contemporaneità, e non me ne vogliono soprattutto i padri trappisti che sostengono questo programma con la loro birra. Vorrei che tutti i preti producessero birra, sarebbe fantastico, invece che fare ore di religione, sarebbe un momento stupendo. E quindi con grande osservanza e rispetto per le convinzioni religiose parto da un articolo uscito su Affari Italiani qualche giorno fa, una rivista online. Parla in chiave politica di un'iniziativa comunque del Ministero della Pubblica Istruzione, del MIUR, di istituire un concorso per altri 4.600 professori di religione. L'articolo dice: il PD guarda la Chiesa, si vogliono fare buoni preti, la CEI plaude, grazie che applaude la CEI. Già ci sono 25.000 professori di religione che ci costano 800 milioni all'anno, che è il 2% del costo complessivo della scuola italiana, ma se viene ritenuto che questo insegnamento è importante, mi sta bene. Si farà un concorso per altri 4.600 per, diciamo, regolarizzare alcune cattedre che sono ricoperte da supplenti. Ora, il professore di religione è un professore di religione che non passa attraverso il normale iter di, diciamo, di selezione e di concorso per fare il professore. No, è un professore che deve essere, in qualche maniera, avere il beneplacito dell'istituzione religiosa per eccellenza, che è la Santa Sede, la CEI, insomma, deve avere una laurea in teologia o altre discipline ecclesiastiche conferito dalla facoltà approvata alla Santa Sede, un attestato di compimento regolare e un corso di studi teologici in un seminario maggiore, quindi aver fatto il seminario, quindi essere un prete. Oppure diploma di accademico del magistero di scienze religiose rilasciato all'istituto di scienze religiose, oppure un diploma di laurea valido a un diploma, insieme a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto alla Conferenza Episcopale Italiana. Insomma, non si può fare professore di religione se non si è, diciamo, giustamente, visto che se si insegna religione si insegna la religione cattolica, perlomeno nell'apparato generale, se non c'è un riconoscimento alla Chiesa. Quindi questo è un orpello che ci portiamo dietro in un momento di grande revisionismo in cui si vogliono cancellare le scritte di Mussolini dagli obelischi. Questo è un orpello tipicamente fascista, perché nel 29 con il concordato si è stabilito tutto questo. Già c'era all'inizio del fascismo la reintroduzione dell'ora di religione nelle scuole, ma con il concordato è stato proprio a tutti gli effetti stabilito da qualcosa in cui la Chiesa aveva una concreta, reale ingerenza, ma ingerenza non lo dico in termini negativi, in quella che è l'aspetto culturale degli italiani. Qual è la storia, l'escursus storico dell'ora di religione? Lo devo dire perché, diciamo, l'Italia risorgimentale nel 1860 aveva l'ora di religione, perché pensavano che in realtà in un momento in cui andava alfabetizzato il paese, era un paese di ignoranti, non parlavano la stessa lingua da regione a regione, il cemento di una religione comune sarebbe servita anche a rafforzare il senso dello Stato. Però dopo la breccia di Porta Pia nel 1870 prevale lo spirito laico napoleonico, è stata tolta l'aura di religione, hanno anche abolito le facoltà pubbliche statali teologia e non sono state mai rimesse. Ora, oggi, alla luce dell'attualità, voi cosa pensate? Non voglio entrare in merito, soldi spesi, soldi sprecati. Ha un senso l'ora di religione, anche se vi diranno che è un'ora di religioni, parlano di religioni vincendo, visto che c'è così poca affezione da parte dei ragazzini di seguirla, dei genitori. Ha ancora senso l'ora di religione? Voi vorreste mettere al posto dell'ora di religione qualcos'altro? Noi abbiamo tre proposte, vi proponiamo qualcosa di alternativo, vediamo chi di voi è d'accordo di farsi portatore comunque di un'idea diversa. Potendo scegliere, cosa vorreste al posto dell'ora di religione? 1. Educazione alla scienza e al pensiero scientifico. 2. Educazione alla salute e alla prevenzione. 3. Cultura digitale e gestione relazioni web. Sono, diciamo, le cose che abbiamo proposto noi, le alternative che abbiamo proposto noi: educazione alla scienza, al pensiero scientifico. Sembra ci siano grandi carenze, non c'è l'idea di quello che sia il procedimento scientifico, l'idea di scienza, l'evidenza scientifica. Se no, non sarebbe il web pieno di persone che inneggiano alle limonate per curare il cancro o parlano ancora di vaccini che fanno diventare autistici. Educazione alla salute e alla prevenzione. In questo c'entra tutto, c'entrano anche le basi di educazione all'igiene sessuale, ma quello che si mangia, quello che fa bene, quello che fa male. Insomma, prima di arrivare marci all'età adulta, sarebbe bene che da bambini sapessero esattamente come ci si cura. La cura del nostro corpo, del non bere, non drogarsi, farsi tutti gli esami possibili e immaginabili, non aver paura di andare dal dottore. Insomma, dalla scuola materna fare un'educazione alla salute e alla prevenzione. Questo sarebbe anche sicuramente un risparmio di spesa pubblica in termini poi di salute, di cure e di ricoveri. Terzo, cultura digitale e gestione delle relazioni web. Qua ci mettiamo tutto il problema, dal cyberbullismo all'incapacità di gestire comunque le proprie relazioni attraverso i social network, l'analfabetismo funzionale. Insomma, sono tre vie. Poi ci sono quello che suggeriscono gli ascoltatori. Molti ascoltatori hanno già scritto: sarebbe meglio fare storia delle religioni, di tutte le religioni. Ma può anche essere, sì, potrebbe essere incorporato anche nell'insegnamento della storia. Insegni storia, diciamo, dai qualche ora più di storia, e c'è una storia, una branca specifica della storia, storia delle religioni. Secondo me poi sarebbe il problema: chi insegna religioni? La religione musulmana deve essere insegnata naturalmente da un musulmano, la religione cattolica da un cattolico. Ci sarebbero delle cattedre polirappresentate. Poi le sottoreligioni, regioni parallele, laterali, anche gli adoratori della sacra scia chimica magari vorrebbero qualcuno che le rappresentasse. È un po' complicato, non è più un momento in cui c'è una definizione. Io mi fermerei a queste tre letture molto concrete, molto pratiche. Le ricordo, le facciamo riascoltare e vediamo, secondo voi, chiamando all'800240024, se doveste aprire una sottoscrizione, quale appoggereste? Potendo scegliere, cosa vorreste al posto dell'ora di religione? 1. Educazione alla scienza e al pensiero scientifico. 2. Educazione alla salute e alla prevenzione. 3. Cultura digitale e gestione relazioni web. 800240024, 0024, la sonorizzazione ironica è dovuta comunque a una sorta di spirito guerrier che entro gli rugge del professor Chiappini. Fabio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Allora, vediamo subito, io metto dei numeretti come sempre, cerco di fare una sorta di sondaggio basandomi su elementi empirici. Educazione alla scienza e pensiero scientifico, alla salute e alla prevenzione, cultura digitale e gestione relazioni web. Lei cosa proporrebbe? Numero 2 in assoluto, con una deviazione. Secondo me sarebbe utilissimo, con ovviamente i dovuti modi, insegnare sin dai piccoli regole di pronto soccorso. Pronto soccorso, ovviamente. Salute e prevenzione, ci siamo, salute e prevenzione. Certo, tutte. Numero 2 sicuramente, perché credo sia manovra per togliere, per evitare il soffocamento, primo soccorso alle persone. Sì. E poi i bambini inizierebbero a capire già sin dalla tenera età cosa potrebbero essere, poi andando avanti ovviamente negli anni, cosa potrebbero essere gli effetti del fumo, dell'alcol, insomma, e comunque conoscerebbero perfettamente il corpo umano, e credo sia una cosa E secondo me questo potrebbe anche un risparmio generale della spesa pubblica. Assolutamente, perché è poi, è poi il risparmio generale, poi la finalizzazione finale del, appunto dell'ASL e tutto il resto, che risparmio generale sui soldi pubblici. Va bene, siamo d'accordo, punto 2, andiamo avanti. Andrea, buongiorno. Ciao Gianluca, ciao. Cosa metterebbe al posto dell'insegnamento in religione? Niente metterai, nel senso che quelle cose che elenchi già ci sono nella scuola. Dove? In tutte le scuole. Dove? In tutte le scuole, però ci sono progetti abbastanza ampi. Io dico istituzione di un insegnamento vero, non progetto che si fa così. Lo so, ma non puoi mettere sullo stesso piano. Allora, io da una parte evidentemente non l'abolirei perché ci campo su questa cosa. Ah, sei un insegnante di religione? Io ti capisco, infatti. Sì, ma tu potresti riconvertirti, che ne so, su cultura digitale, educazione alla scienza, no? Lo so, però non sono, cioè mi sembrano due piani diversi. Ma tu cosa hai studiato per fare il professore di religione, per capire? Sono laureato in scienze dell'educazione, laurea quadriennale, e poi in scienze religiose, laurea triennale. Quindi c'hai anche, diciamo, il benestare dei preti, cioè ci vuole una sorta di attestato. Ma tu devi condurre anche una vita, se tu ti divorzi con tua moglie puoi continuare? Se non mi risposo sì. Cioè, se vivi in castità però... Questo non è che posso non capirlo. Però, diciamo, già i divorziati sono visti un po' male, diciamo. No, però ti correggo su una cosa, non è che è un benestare, cioè è il vescovo che ti delega all'insegnamento, tecnicamente è questo. Se ne è zuppa e pan bagnato, la stessa cosa, scusa. No, sei delegato, quindi potrebbe toglierti la delega. Ha ragione di più, ma ti rendi conto, con i soldi nostri pubblici paghiamo una persona che sta bene al vescovo, ma che c'entra? In teoria, sì, però io, un laico si rivolta su questa cosa qua, diciamo, scusa, che il vescovo, che c'entra il vescovo con lo Stato? Però io ho il mio capo, cioè ho due capi, lo Stato e la Chiesa. Il mio capo della Chiesa, diciamo, responsabile, se combino qualcosa, ma non riguardo la morale, riguardo il Ma lo stipendio chi te lo dà, lo Stato o la Chiesa? Lo Stato. Allora, scusami, la Chiesa dovrebbe fare i corsi per conto suo. È folle, dai. È una cosa folle. Diciamo la verità. Io nel pieno rispetto dico, ma se in una famiglia esiste la necessità e la volontà di coltivare giustamente un cammino di fede, un percorso di attenzione, ma la Chiesa dovrebbe dare gli strumenti alla famiglia per gestirsi questa cosa. Noi si andava al catechismo, mi ricordo, si frequentava la parrocchia. Perché nell'orario scolastico c'è da essere quest'altra area? Non lo dico con cattiveria, con malanimo, con spirito giacobino, assolutamente. Ma visto che si devono fare dei tagli, se non fare dei risparmi, si prenda la Chiesa, giustamente, le chiese, la grande congregazione delle associazioni musulmane, l'onere di continuare un'operazione di cultura nell'ambito religioso dei propri accoliti, dei propri fedeli, e lo Stato recuperi quegli spazi per fare cose indispensabili. Questo è il mio punto di vista, ma è opinabile, chiaramente. Andrea ha parlato, Riccardo. Ciao, sono Riccardo. Io userei le ore di religione per implementare le ore che fanno già lingue straniere, matematica, italiano. Le maestre si lamentano tanto che non hanno ore a sufficienza, i bambini sono sempre più difficili da gestire, hanno bisogno di seguirli, avrebbero bisogno di seguirli meglio. Non vedo il motivo di fare due ore a settimana, e oltretutto me la fanno solo cattolica. No, vabbè, quello oggi mi sembra che un pochino si è allargato, non è più religione, ma è storia delle religioni, perché sennò Guardi, parlo per l'esperienza, io ho due figlie, sì. E loro fanno questo, non fanno storia delle religioni, e quindi quest'anno mi vengono a dire che fanno il Nuovo Testamento, mia figlia fa anche catechismo durante la settimana. Mi sembra veramente un'esagerazione. D'altronde, però, il vescovo quello dirà di fare al professore di religione, mica gli può dire di andare a insegnare il Corano. Ho capito, ma noi, i nostri figli hanno bisogno di fare tutt'altro. Però io sono d'accordo, questo per me è un residuo fascista, andrebbe tolto, visto che oggi si sta tanto lavorando sull'epurazione degli orpelli del fascismo. Questo è un articolo del Concordato, fra l'altro ci costa caro, che secondo me fa parte di una mentalità che non ha più senso di esistere. Pieno rispetto, totale rispetto, tutte le garanzie possibili di professare una religione, ma la scuola pubblica in realtà dovrebbe occuparsi di altre cose. Quindi lei di queste tre opzioni non ne vede nessuna come integrazione di quello che già si fa nella scuola, proprio specifico? No, perché i bambini onestamente hanno già abbastanza di quello che devono studiare, delle lingue straniere. Quindi lei, diciamo, userei questo patrimonio oro, e anche patrimonio di risorse, perché non è che sono proprio due soldi quelli che si spendono, per dare più spazio agli spazi già diciamo già angusti per l'insegnamento delle materie tradizionali. Va bene, abbiamo capito. Federico. Ah, buongiorno, salve, chiamo da Bologna. Io sostituirei l'ora di religione con un'ora di prevenzione o anche salute e prevenzione. Sì, oppure di aiuto sociale, cyberbullismo e l'uso della tecnologia. Quello è però il numero 3, quello è il numero 3. Un misto tra il 2 e la 3. Va bene, lei dice gli sta bene sia la 2 che la 3. Sì, perché ai superiori, nell'ordine di regione, noi il prof ci ha fatto prevenzione, droga, fumo, tutto il resto. Sì, ma ha fatto serio, con docenti seri, nel senso persone che questo insegna. Sì, portava materiale. A livello professionale, non amatoriale. Marina. Allora, io l'ora di religione va tolta, perché la religione è una cosa seria e la religione, come si fa a scuola, è veramente l'ora dove si fa di tutto tranne che religione. Lei è una cattolica osservante, mi sembra di capire. Cattolica osservante. Perfetto. Ma proprio per questo toglierei l'ora di religione dalle scuole. Poi, non ha senso. Ma perché la chiama l'ora della burla? Leggo nella sua scheda. Ma scherza, ma facevamo di tutto. Io ero al Doria, facevamo di tutto tranne che religione. Poi c'erano le lezioni sul sesso, c'era da morire da ridere. Certo, poi rimangono le femmine fatte dal prete. Ma il prete cosa? Scusi, no, ferma un attimo. Marina, il prete che vi diceva voi femmine sul sesso? Ma io non mi ricordo cosa dicevo, perché non avevo capito niente di quello che diceva. Eh sì, perché la prendo talmente alla larga, cominciano talmente il velo santissimo che... della Santa Vergine Immacolata, e che dovete capire. Per cui, per dirvi, non la date fuori dal matrimonio. Noi e arrivavano i maschi e dovevamo uscire noi. Ai maschi glielo posso dire cosa si diceva, perché ho fatto anni da salesiani. Sì, l'unico problema dei maschi è non torturatevi con le vostre stesse mani che diventate ciechi. Questo è l'unico motivo. Che non spero che lei non sia diventato cieco. No, cioè, ho degli occhiali spessissimi. Ho una carenza di diottria assolutamente patologica. No, poi insomma siamo in una società ormai molto... Allora lei, Marina, in conclusione, che donarla lì? Ora di ginnastica in più, che ne fanno poca. Una sana ora di ginnastica. Ma allora mettiamo educazione alla salute e prevenzione, mettiamolo, perché la ginnastica in senso più ampio potrebbe essere cura del corpo. Ginnastica di farli muovere. Se non la fa di nessuno, guardi, nessuna voglia di portarsi la tuta, nessuna voglia di portarsi le scarpette. L'ora di ginnastica si esonerano tutti, prendono i libri, perdono tempo, il professore non c'ha voglia, le palestre sono disastrate, anche l'ora di ginnastica andrebbe tolta, o si fa uno sport serio, o educazione fisica seria, se no perdere tempo un'ora, che tanto nessuno c'ha voglia di far niente, un'altra ora risparmiata sarebbe. Date delle agevolazioni nelle palestre che funzionano, nei centri sportivi che funzionano e vanno lì. L'ora di ginnastica a scuola è ridicolo, si suda, poi bisogna fare un'altra ora, bisogna cambiarsi, ma che c'ha voglia portarsi la tuta dietro? Non si fa mai l'ora di ginnastica, altra ora da abolire. A tra poco, 800 24 00 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da La Trapp, le autentiche birre dei frati trappisti. Assapora il silenzio. Ho fatto religione soltanto alla scuola primaria. Mi hanno esonerato perché non ero battezzata. Inizia la lezione e la classe si svuota. È una scena a cui i professori di religione assistono sempre più spesso. Al liceo classico Beccaria di Milano, per esempio, capita che a far lezione rimangano veramente in pochi. Abbiamo una classe in cui la partecipazione è abbastanza limitata, una classe quinta, composta da circa 23-24 persone, sono due persone che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Secondo la Conferenza Episcopale Italiana, nel 2013 l'89% degli studenti ha frequentato l'ora di religione, ma negli ultimi 20 anni le adesioni sono diminuite in tutti i gradi scolastici, in particolare alle superiori, dove il 18% degli studenti sceglie attività alternative. I dati lo dicono, un allontanamento c'è, e poi tanto dipende dai contesti in cui ogni persona vive, ogni ragazzo vive, la scuola. È vero, il contesto conta. Secondo la maggior parte dei ricercatori, ci si allontana di più dalla religione dove i livelli di istruzione e stabilità sociale sono più alti. Non è un caso, quindi, che al nord... 800 24 00 24, stiamo parlando dell'ora di religione, questo è un servizio Tagadà, della 7, in cui andati in qualche liceo milanese, hanno visto che alla fine rimanevano due persone in una classe a seguire l'ora di religione, però l'insegnante lì è pagato comunque. Questa nostra idea, questa nostra idea di sottoporre al pubblico delle possibilità di immaginare delle alternative nasce appunto dalla notizia che sarà indetto un concorso per altri 4.600 professori di religione che andranno ad appoggiare i 25.000 già in cattedra. Tutto costa, almeno da un articolo uscito sul notiziario online Affari Italiani, 800 milioni all'anno. Ma non ne faccio un problema di spesa pubblica. Dico, non sarebbe in questo momento più opportuno rivedere quell'ora e lasciare l'insegnamento a religione alle persone che di questo si devono occupare, cioè ai ministri di ogni religione, e la scuola magari proporre delle alternative. Ne abbiamo proposte tre. Potendo scegliere, cosa vorreste al posto dell'ora di religione? 1. Educazione alla scienza e al pensiero scientifico. 2. Educazione alla salute e alla prevenzione. 3. Cultura digitale e gestione relazioni web. 800240024. Giuseppe. Salve, buongiorno, sono Giuseppe da Napoli. E intervenivo semplicemente perché non volevo entrare nel merito dell'opportunità o meno di fornire un insegnamento anche molto specifico, ma soprattutto sulla certezza delle informazioni che si stanno diffondendo. No, ci rettifichi. Di fatto dicevo, per esempio, lei parlava di concordato dell'epoca fascista, invece l'insegnamento della religione nella scuola attualmente nasce da un concordato dell'85 dell'epoca di Craxi. Sì, Craxi, la rivista, quindi... sì, Craxi ha semplicemente riconfermato quello che aveva già stabilito il Duce. No, ci sono state moltissime modifiche, quindi non resta fermo il principio che comunque la Chiesa ha in qualche maniera una voce in capitolo in parte degli orari scolastici pagati comunque dallo Stato. Questo diciamo che è un'incongruenza che è tra i limiti dell'insegnamento, però per quanto riguarda i contenuti specifici, e diciamo che sono, dopo le ultime indicazioni nazionali, sono stati decisamente arricchiti verso l'educazione della personalità, che non è specificamente di tipo, come dire, confessionale cattolica, ma insiste sull'aspetto di una spiritualità, di un intendere la vita. Lei ragione, Giuseppe, ragione, si chiama IRC, insegnamento religione cattolica. Sì, però il nome probabilmente. Allora scusi, ma non è che però ci tenevo a dire che ci sono colleghi che probabilmente perdono il loro tempo, e questo io lo chiamo addirittura rubare. Ce ne sono tanti altri come me che effettuano il loro lavoro in maniera molto seria. Ma questo gli fa senz'altro onore. Io non voglio né mettere in dubbio la buona fede di chi insegna religione. È il sistema in sé che, secondo me, non mica dico va tolto, bisogna accendere un rogo e buttarci dentro tutti gli insegnanti. No. Poi dico, riflettiamo sul fatto se oggi abbia ancora senso, in uno stato laico, in una società laicizzata, delle ore scolastiche si chiamano IRC, insegnamento religione cattolica. Ma sì, non ce l'ho con i cattolici, figuriamoci, ci sono battezzato. No, mi manca solo l'estrema unzione, ho fatto tutti i sacramenti, meno l'estrema unzione. Succederà anche quello. Tra l'altro sarebbe anche quello da rivedere, perché estrema unzione, diciamo, è un termine errato, perché si parla di unzione degli infermi per la guarigione e non perché una persona sta morendo. Perché quando dicevano ti faccio estrema unzione si toccavano tutte le palle, hanno detto facciamo guarigione. Se mi consente, volevo precisare soltanto un aspetto che ritengo molto importante, che in un paese nel quale, diciamo, la cristianità ha avuto origine secoli e secoli prima che il paese stesso esistesse come unità nazionale e come repubblica, diciamo nel documento fondamentale della quale la nostra Costituzione, ci sono moltissimi riferimenti, anche se non espliciti, a quello che è il credo cristiano. Allora voglio dire, questa cultura cristiana che ha impregnato il nostro paese per secoli, anche antecedenti all'esistenza stessa del paese, ha la sua importanza. Assolutamente, professore, però vede, sì. A questo punto il programma di storia potrebbe avere una rettifica, dire diamo anche nella storia, visto che non c'è più l'ora di religione, quella sorta di importante e necessario integrazione rispetto alla storia che si fa molte volte anche abbastanza. Ma non è limitato, non è limitato alla storia, qui si parla di arte, si parla di musica, si parla ma la storia dell'arte, la storia dell'arte parlerà di arte religiosa, scusi, di tutto quello che è accaduto al 1900, si parlerà senz'altro, capito? Bisognerebbe anche verificarlo in che modo, quindi la ricchezza Perché devono avere la voce? Programmi che non esistono più, lo sa meglio di me, che i programmi non esistono più, quindi c'è una concezione della scuola che deve accompagnare l'alunno verso il suo sviluppo, verso la cittadinanza europea. Sì, lei ha ragione. Allora io direi che è molto più importante, secondo me, certamente cambiare IRC, che probabilmente è una sigla che... Sì, ma la cosa che non si capisce, perché... Giuseppe, io guardi, ho pieno rispetto e mai vorrei che perdesse un posto di lavoro nessuno, che debba essere un vescovo a decidere la qualità dell'insegnante e la materia in un insegnamento pubblico, secondo me non ha proprio senso. Però dal mio punto di vista, Giuseppe, lei mantiene il suo, io mantengo il mio. Natalino, sì, l'ascolto. Carissimo Nicoletto. Andiamo al punto. Beh, guardi, io ho sentito laicità, per il concetto di laicità significa che Zara non può essere più religione cattolica. Mi sembra una forza. No, guardi, pensiero laico, il laicismo è una deviazione come l'integralismo, il laicista è come l'integralista. La persona laica ha una tale serenità che ammette tutto, c'è posto per tutti, non è che c'è no. Però la scuola pubblica è qualcosa che fa parte dello Stato e quindi che c'entra la religione. Esatto, no, ma infatti io qui volevo arrivare. Se lo Stato si considera laico, a questo punto, tanto alla fine fare un'ora dove le persone si alzano, vanno a fare un'altra cosa, vanno a fare un altro insegnamento, allora a questo punto mi pare che stiamo buttando i soldi. È quello che stiamo cercando di capire. Manteniamo un'istituzione che... Vede, l'ascoltatrice osservante cattolica ha chiamato prima, è una cosa giustissima. Io che sono un osservante cattolica non voglio tollerare un'ora di presa in giro, perché leviamo i casi in cui ci sono persone illuminate e classi che seguono in maniera attenta l'ora di religione. La maggior parte dei casi è una persona piena di buona volontà con davanti delle persone che in piccolissima parte sono interessate a quell'insegnamento. Quindi non serve più nemmeno a coltivare le anime, se vogliamo usare un termine caro a chi insegna religione. Quindi che senso ha? Usate quelle risorse in altra maniera, secondo me questa potrebbe essere una proposta. Ci fermiamo un istante. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta... Melog. Come si insegna oggi la religione cattolica a scuola? Nei modi più differenti. È chiaro che il taglio in questa scuola in particolare è un taglio prettamente culturale. Partendo dall'attualità, passando allo studio delle varie religioni, della storia della religione cattolica, cristiana, c'è un grande collegamento, perlomeno noi cerchiamo... Potendo scegliere, cosa vorreste al posto dell'ora di religione? 1. Educazione alla scienza e al pensiero scientifico. 2. Educazione alla salute e alla prevenzione. 3. Cultura digitale e gestione relazioni web. C'è un ascoltatore che ci scrive SMS che lui è un professore di filosofia della scienza, vorrebbe introdurre filosofia della scienza, ma mi sembra che nella numero uno, nella nostra prima opzione, educazione alla scienza, al pensiero scientifico, c'entra naturalmente anche l'epistemologia, non è assolutamente escludibile, anzi, assolutamente, partendo dall'origine del pensiero, la vedo come un'ora molto filosofica, ma anche molto concreta, molto pratica. L'educazione alla salute e alla prevenzione mi sembra quella che finora ha suscitato un maggior interesse da parte dei nostri ascoltatori, cultura digitale e gestioni relazioni web. Su questo non vi siete molto espressi, continuate a dire vogliamo l'educazione civica, ma guardate, l'educazione civica è un'altra di quelle materie che a scuola non si è mai fatta. Storia ed educazione civica era una volta, però non si faceva mai l'educazione civica. Invece in questa cultura digitale e gestione relazioni web si potrebbe partire proprio dalle basi, dall'analisi dei diritti, dei doveri, delle azioni nei confronti degli altri che comunque sono passibili di azione penale. Quindi vedete che c'entra anche l'educazione civica, visto che ormai la relazione si svolge soprattutto attraverso la mediazione della rete. Sarebbe un approccio anche abbastanza glamour per i ragazzi, sarebbero più attivi a un professore gli insegni come vi comportate voi nelle vostre relazioni con i social network. Giancarlo. Buongiorno. Io telefono per un'idea, nel senso che non penso all'educazione civica, penso all'educazione alla cittadinanza. Credo che abbiamo bisogno sempre più di formazione all'essere cittadini, pertanto l'educazione civica, non tanto l'educazione civica, l'educazione alla convivenza democratica e civile e alla cittadinanza. E toglierei l'ora di... Sì, se mi permette Giancarlo, sono d'accordo. sarebbe, diciamo, una materia di approfondimento del punto 3, cultura digitale e gestione relazioni web. Forse l'abbiamo espresso in maniera un po' drastica, però in effetti l'educazione alla cittadinanza oggi non può più prescindere dalla nostra espressione digitale, dall'ombra digitale che ci rappresenta ogni giorno. Sarebbe un'educazione civica con un occhio attento e con una concretezza attenta a quella che è l'attualità. Quindi sono d'accordo con lei e segno decisamente al punto 3 la sua opinione. Francesco. Buongiorno Nicoletti. Io l'ascoltatore precedente mi ha praticamente anticipato, io sono pienamente d'accordo con lui. Secondo me i nuovi italiani, i nuovi adulti italiani dovranno imparare a pagare le tasse, a rispettare il proprio territorio e quindi l'educazione civica, sì, ma in senso, se vogliamo, svecchiato, sarebbe secondo me l'insegnamento da adottare in futuro. Allora, diciamo, cioè, un'educazione civica provvista in una chiave contemporanea, non legata comunque a qualcosa di ammuffito, di vecchio, che sarebbe molto interessante per i ragazzi, visto che hanno la capacità e la sensazione di potersi esprimere subito, immediatamente, appena hanno il dono di avere uno smartphone in mano e capacità di leggere e scrivere, per prevenire e arginare l'analfabetismo funzionale, che è il grande male oggi nella rappresentanza che hanno i cittadini di se stessi. L'analfabetismo digitale è la macroscopica maniera per dimostrare che non siamo ancora in realtà un popolo che ha strumenti culturali per potersi esprimere al 100%. Quindi questo andrebbe a compensare questa carenza. Antonio, buongiorno. Antonio, ha parlato Davide. Pronto? Davide, l'ascolto, sì. Buonasera, salve. Volevo solo dire che a mio parere l'ora di religione in se stessa sarebbe utile. Il vero problema è il fatto che si insegni solo e soltanto quella cattolica, semmai, quindi non il bandire la religione che fa parte della storia dei millenni dell'uomo, ma semmai renderla più democratica e partecipata negli studi degli altri sistemi religiosi. Ma lei istituirebbe un'ora specifica proprio per insegnare storia di tutte le religioni al posto dell'ora di religione così come è intesa adesso? Certo, in questo senso. Ma in questo caso, scusi, che c'entra il vescovo, che c'entra la CEI? Quello è un grave problema che bisognerebbe affrontare. Ma infatti il problema è di base. Il problema di base andrebbe scardinato il sistema per cui esiste una norma, se vogliamo, di revisione concordataria, c'ha ragione, fatta negli anni 70 da sì, Craxi, sì. Però il succo è quello, un vescovo mette una persona di suo gradimento dentro la scuola italiana a insegnare quello che vuole il vescovo. È un'ingerenza tecnicamente, totalmente. Per uno stato laico non c'è bisogno, semmai uno studio comparato di tutte o perlomeno il vescovo dovrebbe pagarsela con i soldi suoi, se vuole, e chi vuole ci va. Finita alle 1 chiude la scuola, dalle 1 alle 2 i ferventi usano l'aula scolastica, già mi sembra un grande privilegio, con una lezione di religione però a spese del rappresentante di ogni singola religione, se proprio vogliono. Quindi sarebbe posto per tutti, un'ora facoltativa, chi vuole ci va, ma già ci vanno poco adesso. Davide ha parlato, Angela. Sì, buongiorno. Allora, io sono favorevole a cultura della digitale, soprattutto dell'insegnamento delle relazioni, come gestire le relazioni sul web. Punto 3, perché, quindi, punto 3. Sì, punto 3, perché comunque noi genitori, tanti genitori si trovano veramente in difficoltà, oggi come oggi, gestire questo aspetto della vita dei figli. E comunque storia delle religioni, che è una storia, non religione, che potrebbe essere comunque qualcosa di interessante, può essere fatto tranquillamente durante le ore di storia, anche perché spesso comunque la storia si è scritta con quelle che sono state, diciamo, i dettami religiosi. Sì, ma infatti, cioè, allora incrementare, rivedere i programmi di storia in cui la religione, che non è più insegnata, è l'ora di religione, faccia parte, sotto un punto di vista di analisi storica, anche dell'ora di storia. Per la parte dell'arte, già la storia dell'arte parla di arte religiosa, perché l'arte è stata soltanto religiosa fino a un certo punto della storia dell'umanità. Antonio. Buongiorno. Dopo la sua spiegazione devo dire che il punto 3 è diventato più interessante, però io nel frattempo avevo immaginato un'ora che potremmo chiamare di cura delle cose, perché credo che ormai i ragazzi ne abbiano sempre di meno di cura delle cose, e che da quando le cose costano di meno e si possono buttare e ricomprare anche nel lavoro. Ma quella che una volta era applicazioni tecniche? Ma no, più che altro penso anche immagino anche un qualcosa che riguardi la cura dell'ambiente in cui vivono, di cui allora salute studiano, scusi, quindi... salute e prevenzione. Salute e prevenzione, c'è anche l'ambiente dentro, chiaro. l'attenzione anche... all'ambiente, l'attenzione alle città, l'attenzione alla raccolta differenziata, c'entra tutto in questo. Però più applicata, magari qualcosa che riguardi la propria classe, quindi la pulizia della classe. In Giappone, per esempio, gli studenti sin da piccoli si occupano della pulizia della classe. Ma guardi che mio figlio è stato 4 mesi in Corea, in un'università, dovevano pulirsi la stanza tutte le sere, veniva uno a fare il controllo, gli toglievano crediti. Perfetto. Universitari, credo, quindi lì sono seri. Credo sia molto utile. Io ho un'azienda, una piccola azienda con 10 dipendenti, la maggior parte sono ragazzi dai 19 ai 28 anni, e noto in loro una cura sotto zero dell'ambiente in cui lavorano, quindi la sera se ne vanno. Però Antonio, noto una cosa, io tiro sempre le conclusioni alla fine della nostra trasmissione sondaggio, con i limiti può avere un sondaggio con una fetta di pubblico che in fondo rappresenta secondo me gli italiani. Ci siamo equamente distribuiti sulle nostre 3 proposte: la scienza, la salute, la prevenzione, la cultura digitale. Ma la difesa della loro religione è stata fatta soltanto dagli insegnanti di religione. Hanno chiamato persone che lo fanno per mestiere, capisco che logicamente mi sembra scontato difendano il loro posto di lavoro, ma possono essere reimpiegati in qualcuna di queste nuove discipline. Ma nessuno ha rimpianto comunque il fatto che manchi un insegnamento di religione nella scuola italiana. E su questo magari dovrebbe anche il ministro fare una riflessione. Alla prossima.